Es tu sueño, es un chituco. Hai sentito parlare dell'atto d'emancipazione? Non sento musica hip hop. haitzak ezurre datago zurbil eta argal txokoan egoten da isilikan Martina segionera tajan ezazukan txokoan egoten da isilikan Martina segionera tajan ezazukan. Gietan jarrai, gietan jarrai Yolanda, Martina, gietan darrai. neću nikad više. Judge me. and me. Nuclear meltdown, all it costs. Radio frequency. Asamblea, gente lucha, hacen de un mundo mejor, donde podamos.